Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Aquileia, lo conoscete? Ora è un piccolo comune con poco più di 3.000 abitanti di Udine. Nulla di eccezionale sembrerebbe, eppure questo paesotto 2.000 anni fa era la città più importante del nord-est. La più importante. Qui arrivavano le merci dell'Adriatico e di qui passavano mercanti, soldati e diplomatici in cammino verso l'Europa dell'Est. Un vero miscuglio di razze, lingue, religioni diverse, benedette dalla Pax Romana. Ed è proprio da qui che iniziò a diffondersi una notizia poco meno di 2.000 anni fa. Una notizia sconvolgente. Prima annunciata sottovoce, poi gridata nelle piazze. Una notizia così scandalosa da meritare la pena di morte. Gesù di Nazaret è risorto. Una notizia che si è diffusa nonostante tutto e nonostante tutti da qui, da Aquileia, nelle terre del nord-est. I mosaici del pavimento della Basilica di Aquileia, scoperti quasi per caso un secolo fa, ci ricordano questa storia millenaria. Aquileia non è stato solo quindi un punto importante per il messaggio di Cristo, ma proprio anche per la Chiesa, perché ad Aquileia si celebrò nel 381 l'importante Concilio di Aquileia, dove Sant'Ambrogio di Milano difese la divinità di Cristo contro le dottrine dell'eretico Ario. Ma è nella storia recentissima degli ultimi anni che Aquileia è tornata ad essere un punto di riferimento per le chiese del nord-est. Il primo convegno di Aquileia nel 1990, con il quale è iniziato il cammino comune delle 15 diocesi del nord-est, che hanno iniziato anche così a lavorare insieme. I frutti di questo primo convegno, la Facoltà Teologica del Triveneto e Telechiara, sono sotto gli occhi di tutti. Nell'aprile 2012, un mese e mezzo fa, il secondo convegno di Aquileia, Testimoni di Cristo in Ascolto, che ha visto coinvolte tutte le 15 diocesi del Triveneto, più di 600 i delegati, vescovi, sacerdoti, responsabili dei diversi uffici pastorali, ma soprattutto laici, tanti, tanti, tanti laici responsabili, e tra questi tante, tante donne. Tutti insieme per riflettere, in ascolto delle indicazioni dello Spirito Santo, sulle sfide che la Chiesa è chiamata ad affrontare. Nuova evangelizzazione, dialogo con la cultura e con le altre culture, il bene comune. Per noi, che dedichiamo ogni settimana questa striscia proprio al bene comune e alla dottrina sociale della Chiesa, Aquileia non può passare inosservata. Troppi gli spunti e troppi i semi piantati nel terreno sul quale le 15 diocesi sono chiamate a lavorare. Ne parleremo tra pochissimo, ma prima ascoltiamo un brano tratto dal messaggio che i vescovi, i 15 vescovi del Nord-Est, hanno inviato ai fedeli al termine di questo convegno. Dal messaggio conclusivo alle comunità cristiane del Nord-Est dei vescovi delle 15 diocesi del Triveneto dopo il convegno Aquileia 2. Come comunità cristiana incarnata nel territorio del Nord-Est, solidale con le popolazioni che lo abitano, avvertiamo la complessità e l'incertezza di un'epoca che ha visto prodursi trasformazioni strutturali in vari ambiti della vita personale e delle relazioni familiari e sociali. Abbiamo considerato seriamente le difficoltà e gli ostacoli a comprendere e vivere la fede cristiana e le sue esigenze spirituali ed etiche, ma abbiamo anche visto segni e germogli di novità suscitati dallo Spirito. La situazione non ci ha condotto al pessimismo e alla rassegnazione, ma ha stimolato il senso della missione a cui il Signore oggi nuovamente ci chiama per dare il nostro reciproco contributo al bene comune della società, per proporre la grandezza e bellezza del Vangelo della carità, per alimentare di ispirazione evangelica gli ambiti della vita quotidiana. Abbiamo con noi in collegamento telefonico, cari ascoltatori, Francesca Schiano, direttrice della Scuola di Formazione all'Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Padova, che ad Aquileia era presente come convegnista. Grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Professoressa Schiano, cos'è stata per lei Aquileia, il convegno di Aquileia dello scorso aprile? È stata un'occasione molto importante per due motivi. In primo luogo perché, avendo partecipato ad Aquileia 1 e avendo partecipato con grande intensità a tutto il cammino di preparazione delle diocesi e della mia in particolare, cioè della diocesi di Padova, vivere Aquileia 2 mi ha dato, da un lato, il segno marcato del tempo che è passato, di come siamo cambiati come società civile, come Chiesa, e dall'altro anche il segno di come la realtà ecclesiale del Triveneto sia viva e di come in particolare sia viva ed attiva una realtà ecclesiale a livello di laici che ha avuto ad Aquileia il modo di esprimersi in maniera diversa rispetto al convegno di 20 anni fa. Il protagonismo laicale questa volta non è stato solo quello dell'eccellenza intellettuale, pur prezioso, ma è stato proprio quello dell'essere corresponsabili della Chiesa giorno per giorno nel suo divenire quotidiano. In particolare io mi sono confermata in quello che intuivo essere una necessità, ma anche un punto di forza per le chiese del Triveneto oggi, lo scambio di esperienze, la relazione forte non solo a livello laicale, la condivisione del discernimento sulla nostra realtà di chiesa, sulla nostra realtà sociale, sul nostro modo di vivere la fede. È stata un'esperienza positiva e di questo ringrazio i vescovi, ma soprattutto rendo grazie al Signore. Facciamo una breve pausa, torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati carissimi ascoltatori per la 20ª puntata del Bene di Tutti, parliamone. Nel scorso mese di aprile, un mese e mezzo fa, si è tenuto ad Aquileia il secondo convegno ecclesiale delle diocesi del Nord-Est. Ne stiamo parlando con Francesca Schiano, direttrice della Scuola di Formazione all'Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Padova, che ad Aquileia era presente come convegnista. Grazie per essere con noi. Ancora grazie a voi. Il convegno di Aquileia nel pomeriggio del venerdì è stato aperto dalla meditazione di suora Elena Bosetti, suora di Gesù Buon Pastore. Un intervento molto profondo, molto intenso, che ha strappato applausi e a scena aperta e soprattutto forti consensi. Suora Elena ha invocato nella sua meditazione una chiesa più vicina alla gente, capace, ha detto lei, di nuove forme di prossimità, ma che soprattutto sappia guardare la realtà anche con occhi di donna. Alla luce della forte presenza femminile ad Aquileia, che praticamente era quasi alla pari con quella maschile, cosa le è rimasto di questa meditazione? Ho goduto molto della meditazione, è stata importante, ci rifletto spesso. In me due sentimenti contrastanti. Il primo, l'ho detto più volte, io sogno ad occhi aperti il tema, il giorno, nel quale l'auspicio che la presenza femminile venga più valorizzata non sia più necessario. Nella Chiesa ci sono ancora delle resistenze e tuttavia sono resistenze, piccole incomprensioni a livello, penso, più personale. Teniamo presente che l'appello di suora Elena è quello che tra gli altri ha riscosso un applauso spontaneo, veniva esattamente dopo le parole del Papa pronunciate nel giorno di Pasqua, in cui appunto si chiedeva e dava una risposta estremamente positiva del perché la prima manifestazione del risorto sia stata proprio a donne. Da un lato quindi a me non piace portare avanti un discorso di genere, vorrei che questo non fosse più necessario. Dall'altro però ritengo che siano ancora tempi in cui questo va fatto, soprattutto perché le donne hanno un approccio al servizio, alla carità e all'impegno pastorale che porta loro una sapienza di prossimità alla gente che è strutturalmente più attenta di quella maschile, o meglio, compensa e completa quella maschile. E quindi la presenza femminile contribuisce in maniera fondamentale a questo esercizio di prossimità e a questo volto nuovo della Chiesa che prima dell'inizio dei lavori Suor Elena aveva preannunciato e che poi è stato confermato in tutti i lavori di gruppo e nelle relazioni. Il convegno di Aquileia non ha trattato solo temi del bene comune, ma ha abbracciato soprattutto la grossa tematica della nuova evangelizzazione, però noi ora ci occupiamo prevalentemente di bene comune e di diritti. Durante il convegno, molti convegnisti, ed è venuto fuori anche durante la presentazione finale dei lavori dei gruppi, hanno ripetuto uno slogan: non più immigrati ma migrantes, segno che tutti noi, anche che siamo residenti nel nord-est da molti anni, siamo comunque migranti in questa terra, siamo di passaggio. Che ne pensa di questo approccio, al di là comunque delle frasi o delle formule? L'idea dell'essere migrantes, nel senso di pellegrino sulla terra, dove a questo essere pellegrino si attribuisca non certo una attitudine di disimpegno verso le cose terrene, ma una giusta relazione con esse, è un richiamo assolutamente necessario oggi come ieri e come ovviamente lo sarà anche domani. E tuttavia il termine migrantes sicuramente ci dice qualche cosa della nostra realtà sociale, che è come le migrazioni in atto stiano completamente sovvertendo ogni significato, per esempio, dello stesso concetto di etnia, del concetto di popolo, del concetto di cultura, e quindi la stessa relazione con chi è migrante, andando adesso ad un tema che è sociale ma che è anche politico, cambierà moltissimo nei prossimi anni e cambierà così rapidamente che se non staremo attenti e se non saremo anche forti elaboratori di cultura, tutti i nostri modelli politici, sociali e culturali di approccio saranno completamente desueti e inefficaci. Aquileia ha sicuramente individuato sia buone prassi già in uso, sia prospettive, soprattutto nella prima proposizione nella quale si voleva individuare un volto di Chiesa, ma ha indicato anche la necessità di una rielaborazione culturale profonda, rapida e rigorosa. Un altro tema forte in questo periodo di crisi, quello del modello del Nord-Est, erano tutte le chiese del Nord-Est, tutte le 15 diocesi, in un periodo nel quale le cose non stanno andando molto bene, soprattutto dal punto di vista economico, proprio il punto di vista economico che aveva dato un volto al Nord-Est negli scorsi anni, e chiaramente la Chiesa aveva a che fare con un Nord-Est diverso nel 90 rispetto durante Aquileia 1 piuttosto che Aquileia 2. Cosa è uscito dal convegno dai convegnisti a questo riguardo nel rapporto con un mondo economico sempre più in difficoltà? La domanda è estremamente complessa, anche perché la difficoltà attuale rischia di focalizzare tutte le attenzioni e rischia di far perdere di vista il quadro di riferimento. E tutto sommato questo è un po' quello che è avvenuto dopo Aquileia 1, perché i seminari preparatori, i lavori della stessa Aquileia avevano individuato degli elementi di crisi che poi si sono ampiamente manifestati, ai quali forse non siamo stati sufficientemente attenti. Elementi di crisi che cominciavano già a delinearsi solo 5 anni dopo Aquileia, quando a noi delegati del Triveneto, in occasione del convegno ecclesiale nazionale di Palermo, fu chiesto qualcosa sulla locomotiva del Nord-Est. Avemmo gioco facile nel dire che il fumo della locomotiva del Nord-Est cominciava ad essere meno caldo e meno forte, e tuttavia questo non ci è servito a guardare più avanti. Quali sono, a mio giudizio, gli elementi del modello Nord-Est, che è molto più complesso di quello che non appaia? Ne dico tra i tanti solo due. Da un lato mi pare che si debba salvaguardare e trasmettere in maniera nuova ed efficace alle nuove generazioni un elemento fondamentale del modello Nord-Est, che era la cultura del lavoro. Lasciamo stare ciò che sta avvenendo a livello di suicidi, ogni caso è diverso dall'altro, ogni caso è drammatico e doloroso, ma se non ci fosse una dimensione di cultura del lavoro e di senso della responsabilità che il lavoro comporta verso se stessi e verso gli altri, questi suicidi probabilmente non ci sarebbero o sarebbero in misura minore. Una cultura del lavoro che è un elemento fondamentale e che va contrapposta alla cultura del guadagno da finanza, dove la ricchezza non va certo demonizzata, ma il lavoro dice dell'uomo e sull'uomo ciò che la finanza spesso nega. Ciò detto, ci sono evidentemente degli enormi spazi in cui il modello veneto ha mostrato tutti i suoi limiti, nella dimensione delle aziende, nella strutturazione delle aziende, ma soprattutto nella cultura, nella capacità progettuale e nella capacità di vedere il futuro. È quando la cultura del lavoro e quindi il lavorare tanto, il fare tanto è stato l'unico elemento e non si è saputo coniugare adeguatamente con il sapere, il saper fare in prospettiva, saper prevedere e progettare, qui il modello è caduto. Un'ultima domanda in velocità. Nella conferenza stampa conclusiva, rispondendo ad un giornalista che domandava di individuare appunto nella società del Nord-Est un peccato, lei ha imputato un peccato non tanto alla società del Nord-Est quanto alla Chiesa, un peccato di omissione sulla vita politica. In che modo i cattolici sono stati assenti nella politica degli ultimi 20-30 anni? In due modi, peccato di omissione, di due tipi. Primo, il trauma legato alla caduta della DC e al fatto che la formazione alla coscienza sociale e politica aveva avuto un rallentamento ha determinato la cessazione nelle nostre parrocchie, nei nostri circoli culturali, nelle nostre associazioni di qualsiasi discorso di tipo politico, perché la divisione e lo smarrimento facevano paura e non abbiamo avuto la forza di affrontare la divisione e di trovare una composizione non in una sintesi unitaria, che non era e forse non è possibile ancora, ma sicuramente in una capacità di dialogo. Primo peccato di omissione. Da questo peccato di omissione è venuta una separazione quasi dell'azione formativa. Si è lamentato in più proposizioni l'assenza di percorsi di formazione alla dottrina sociale della Chiesa, ma ci sono anche state prospettate delle soluzioni in questo ambito, e una assenza quindi di elaborazione di pensiero politico, in cui il pensiero cattolico, anche frammentato, poteva e doveva dare un contributo fondamentale per la nazione e per l'Italia. Vedremo se da questo spirito di Aquileia cosa ripartirà, come le chiese del Nord-Est continueranno a lavorare insieme e come i laici impegnati nel sociale e nella politica, laici nel senso cattolico del termine, non nel senso lontani dalla Chiesa, ma dentro la Chiesa con una vocazione laicale, riusciranno a fare. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi e buona giornata. Siamo giunti al tempo dei saluti e ringraziamo l'associazione San Gaetano Don Piero Zaramella per il sostegno e il contributo alla realizzazione di questa trasmissione. Noi ci troveremo nuovamente martedì prossimo per tutto il mese di giugno, sempre alle 18.25 sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci grazie al podcast sul nostro sito, mandateci pure una mail a redazione @bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, un grazie ancora e l'appuntamento è a martedì prossimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova.